Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. È stata costituita un'apposita commissione composta da esperti della materia e da deputati particolarmente attivi su queste questioni, che ha elaborato una dichiarazione di principi relativi ai diritti e ai doveri in Internet. Dal prossimo 27 ottobre si aprirà una consultazione pubblica in modo tale che si possa avere la più ampia partecipazione possibile anche da parte dei cittadini e dei diversi soggetti interessati. Oggi rendiamo pubblica una prima versione della carta che vi consegno quale contributo al dibattito che si svolgerà nella seconda sessione di questa nostra riunione. Certo, se io devo pensare che la civilizzazione digitale debba passare attraverso termini come commissione, consultazione, pubblica udienza, personaggi saggi che riflettono, sono lievemente perplesso, ma non posso che stracciarmi le vesti della felicità sapendo finalmente nei palazzi delle nostre istituzioni, nei più alti palazzi delle nostre istituzioni, a parlare il presidente della Camera Laura Boldrini, si comincia a parlare di diritto di Internet, cioè come passa il concetto che in realtà Internet sia un diritto, come uno ha diritto alla felicità, ha diritto ad avere l'acqua corrente in casa, ha diritto ad avere la corrente elettrica in casa, ha diritto a potersi esprimere, ha anche diritto di avere la rete. Quindi un gruppo di saggi, tra cui il professor Rodotà, saggio tra i saggi, hanno cominciato a pensare e hanno elaborato in 14 punti quelli che dovrebbe essere una carta abbozzata, una carta che è una commissione costituita dal Presidente della Camera, da Rodotà, altre persone, non è niente ancora che diventi o assomigli a una legge, però se ne discute, si comincia a discutere di qualcosa che è veramente la prima volta che in questi termini se ne discute, che Internet non è più, diciamo, un luogo sconosciuto da sondare, da controllare, in cui bisogna prendere per la mano come se fossero bambini tutti i cittadini e accompagnarli dentro. Dentro e fuori ormai sono la stessa dimensione dell'esistenza, questo almeno l'hanno capito. Poi vediamo a margine e a commento di quello che sta accadendo cosa realmente ci interessa, cosa in realtà fa parte probabilmente ancora di delle prese di posizioni ufficiali di facciata, ma ancora non corrispondenti a un effettivo cambiamento. 800240024, ritenete che Internet sia un diritto e come debba essere secondo voi articolato questo diritto, a cominciare dal fatto magari che la rete sia reperibile gratuitamente ovunque, dovrebbe arrivare a casa, dovrebbe avere la rete come a casa la corrente elettrica, come ha l'acqua corrente, secondo me dovrebbe esserci il contatore della rete, ma però dovrebbe essere gratuita perché è un diritto di espandersi che non può essere alienato dagli altri diritti fondamentali dell'essere umano. Andrea Rossetti, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Professore Andrea Rossetti insegna filosofia del diritto all'Università Milano Bicocca, insegna anche informatica giuridica, è la persona che stamattina ho scelto per darci intanto un'idea di quello che sta accadendo. Come si concilia il linguaggio di palazzo con il principio che in realtà dovrebbe uscire da questa consultazione, da questa commissione? Ma per ora con difficoltà, direi. È chiaro che essendo una dichiarazione di diritti, come tutte le dichiarazioni di diritti, insomma, considerandolo un po' come una forma letteraria, è abbastanza vago e generale quello che viene detto. È una carta dei diritti. È una carta dei diritti in Internet. Ecco, colpisce anche il fatto appunto che si sia deciso di chiamarla diritti, no? Quindi con preciso riferimento a un utente. Nella nostra tradizione i diritti soggettivi sono quelli che vengono imputati all'individuo. Ecco, qui è una carta che dovrebbe in qualche modo tutelare i cittadini che vanno in qualche modo e con qualsiasi mezzo in rete. Ovviamente trattandosi di una carta, insomma, di una carta dei diritti, non si entra nel dettaglio, non si entra nello specifico. La cosa, cioè, che... Il primo problema è che bisognerebbe trovare la rete per andarci. Bisognerebbe trovare la rete, garantire cosa vuol dire garantire il diritto d'accesso, insomma, è una cosa piuttosto complicata. Ma ripeto, forse questo non è tanto il compito di una carta. Quello che ci sarebbe forse aspettato sarebbe è forse una maggiore strutturazione proprio dal punto di vista giuridico. A volte si confondono principi con diritti, semplici tutele con tutele paternalistiche. Insomma, è solo una bozza, ecco, per fortuna questa, e direi che i margini di miglioramento non possono che essere moltissimi. Ecco, cominciamo a capire i vari punti, se possibile, senza poi passare per tutti i 14 quelli fondamentali. Il primo l'hai già abbastanza enumerato, è il riconoscimento che esistono comunque dei diritti. Cioè, finalmente la rete non è più qualcosa di staccato dalla vita quotidiana, distaccato dall'esperienza individuale, dalle relazioni, ma è qualcosa che fa parte integrante dell'essere umano. Sì, ecco, questo però direi che è il punto, la domanda che non ci si è posta all'inizio, no? C'è effettivamente bisogno di una carta dei diritti specifici in internet? Appunto, se non c'è più differenza tra mondo reale, diciamo, e mondo che una volta si chiamava virtuale, ecco, che bisogno c'è di una carta specifica per i diritti rete? Questa è forse finora la domanda... non l'avevano mai detto, però se ne parlava come qualcosa di staccato dall'universo. No, certo, certo, da questo punto di vista è sicuramente un passo avanti, però è anche vero che insomma, i giuristi, insomma, coloro che si occupano di diritto sanno benissimo che molte delle fattispecie che prima si applicavano alla vita reale si applicano anche banalmente a quello che accade online, insomma, forse la più nota di tutte è quella della diffamazione, no? Io posso diffamare in rete e fuori rete e la fattispecie resta complessivamente la stessa, insomma. Ecco, scusami Andrea, ma... Poi perché è necessario ridefinire alcuni parametri che sembravano intoccabili, non discutibili, come quello appunto della nostra privatezza, della privacy. Non è importante qualcuno ristabilisca dalle basi che mancano proprio? Come fai a riformare poi le norme giuridiche, le fattispecie giuridiche, se inizio qualcuno non dice, dei grandi saggi del nostro paese, che anche la rete entra a far parte in questa carta? Giorni fa abbiamo parlato di una commissione che sta studiando la giurisdizione e l'applicazione del diritto ai robot, come se i robot comincino ad avere una loro soggettività. Quindi è giusto che la rete cominci a essere considerata come un luogo reale, non concreto ma reale. No, questo è indubbiamente vero e il fatto è che già questo avviene nei tribunali, insomma, se non dal punto di vista normativo, dal punto di vista giurisprudenziale, chi ha pratica di avvocato, chi ha pratica giudice sa benissimo che gli strumenti della rete sono oggetto di dibattimento quotidiano ormai in qualunque tribunale, insomma. Sia poi ci si muove sull'interpretazione, sulle ambiguità, sulle sentenze. Sì, certo, però l'ambiguità, la vaghezza sono ineliminabili dalle norme. Ripeto, questo è un ottimo punto, passo in avanti è questo, io non dico che sia una cosa negativa, è effettivamente la prima volta in qualche modo che i politici italiani prendono atto del fatto che la rete è una realtà accanto a molte altre, questo è sicuramente non si era mai detto prima, dubbio. Io ne sentivo parlare soltanto in termini di pericolo dalla rete, soprattutto certo. Negli anni passati, certo. Salvaguardia della rete, educazione della rete, questo stato mamma che deve prenderci per mano. Aspetta, sentiamo Alessandro, primo ascoltatore, 800240024, pensate che internet sia un diritto, faccia parte dei nostri diritti. Alessandro, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Un diritto sì, ma è un servizio e come tale va pensato. A me viene un po', come dicono a Napoli, un freddo in cuollo quando sento parlare di diritto, perché un brivido lungo la schiena, dite. Bravissimo. Perché ricadiamo in questa logica giuridica, l'ha detto anche il professore prima, questa logica giuridica che governa tutte le cose, ma non, secondo me è proprio un approccio sbagliato, vecchio, volevo solo dire quello. E qual è un approccio invece in linea con la civilizzazione digitale, secondo lei? Come dovrebbe un amministratore parlare di internet? Dovrebbe dire faccio una legge perché sia connettività gratuita ovunque e ad alto specifico valore per tutti ovunque, non è che io devo pagare 10 euro un'ora di connessione in un albergo, ma devo andare per strada a cercarla con il telefonino perché non la trovo. Sì, però vedi Nicoletti, lei so che lei conosce bene questo argomento, se ne occupa da tempo immemorabile, però da tempo altrettanto immemorabile parliamo di una rete performante, no? Mentre poi alla fine non si fa niente. La verità è che secondo me il vero problema è proprio quello, cioè il diritto in questo caso non c'entra niente, c'entra una logica di servizio nel quale lo Stato può fare delle cose, ma non tutte. Può sicuramente aiutare e può sicuramente spingere, però è un tema estremamente complesso che non può essere legiferato, perché col tempo che ci mettiamo noi, non dico a prendere decisioni, ma a fare le leggi, nel frattempo è già cambiato tutto. Sì, ma tanto non è che le persone si tagliano le vene, continuano a arrangiarsi come possono, spagandosi la rete di tasca propria, imprecando e bestemmiando quando è il momento che devi trasferire un file e non ti funziona la rete, andandola a cercare in giro come dei rabdomanti. Andrea Rossetti, vediamo di capire meglio allora cosa, oltre il diritto, cosa dicono questi 14 punti. Non ha torto l'ascoltatore, no, una cosa saggia. Allora, da una parte sicuramente non ha torto, insomma, è anche vero che quella che lui insomma descrive è una funzione normativa, no? Lo Stato non è che legifera semplicemente imponendo o ponendo divieti, insomma lo Stato fa delle cose più complesse. Due esempi direi dei diritti che vengono indicati e che secondo me sono dei diritti fino a un certo punto. Il primo ad esempio è il diritto alla neutralità della rete. Quello della neutralità della rete è un principio che riguarda la maniera in cui le informazioni viaggiano in rete. L'idea è che indipendentemente dal contenuto le informazioni devono viaggiare con la massima velocità possibile, resa possibile dalla tecnica. Ecco, questo difficilmente è un diritto delle persone, però è un modo di funzionamento che dovrebbe garantire uguale accesso non tanto ai cittadini quanto piuttosto alle imprese, alle ditte. Insomma, quindi un po' di confusione mi sembra ci sia. Secondo esempio che vorrei fare è quello dell'anonimato. Si parla di anonimato, si dice che l'anonimato è garantito, però ecco, a un certo punto dice però ecco la polizia ha sempre diritto ad andare a vedere chi c'è dietro un nickname. Ma allora non stiamo parlando di anonimato, no? In alcuni punti di questo documento sembra quasi che noi ci dobbiamo, per affrancarci dallo strapotere che hanno entità come Google, come Microsoft, come Yahoo, che non potremmo mai fare legge comunque, perché alla fine Google, per quello che riguarda il pezzetto che sta in Italia, ci abbiamo già provato, allora, in disgraziate situazioni. C'è questo problema, però io mi domando poi, affidarsi completamente allo Stato non è cadere dalla padella alla brace. Allora io per non affidare le mie informazioni a Google le devo affidare tutto allo Stato e poi ci pensa lo Stato? Ma a me questa cosa spaventa un po', insomma, benché io riconosca allo Stato una funzione indispensabile nelle società moderne, è chiaro che dare troppo potere allo Stato non è esattamente in linea con quelli che sono i principi di una società liberale, che secondo me è il tipo di società da preferire in molti casi. Sentiamo un'ascoltatrice, così ti dà anche il segno della qualità dei cittadini a cui poi si rivolgono loro, forse noi ragioniamo in termini diversi. Manuela, buongiorno. Buongiorno. Qual è il problema secondo lei? Ma il mio problema è che da insegnante rilevo preoccupante, ma veramente preoccupante, bullismo in rete e nessuna tutela. È la cosa che mi spaventa di più. E insegnando a ragazzi dai 14 ai 18 anni li vedo assolutamente indifesi, vittime e impossibilitati a rimediare, non possono spostarsi da una città all'altra perché la rete è diffusa ovunque, non possono fare niente, sono vittime paurose. Ecco, secondo lei, le faccio una domanda, lo Stato cosa dovrebbe fare? Perché si sta dicendo esattamente il contrario, libertà per tutti, libero accesso, tutela della privatezza, lei dice però il problema sono i bulli in rete. Io le dico dal mio punto di vista... dovrebbe essere una polizia e pulizia della rete, rendendo nulli e inaccessibili questi tipi di stravolgimenti, dell'uso stravolgente. Io la rete la uso quotidianamente e mi piace. Ma la professoressa chiede una sorta di controllo poliziesco della rete, perché per lei ci sono dei pericoli. Poi ci fermiamo solo un secondo, do il traffico, riprendiamo proprio da questa telefonata, mi sembra un punto essenziale. Certo. Alla fine la percezione media dell'italiano age dal punto di vista digitale, non dico anagrafico, esattamente questo, la rete è ancora un grande pericolo, bisogna mettere delle barriere e mettere dei cani di guardia. Melog, cronache meridiane. Stiamo parlando della discussione aperta alla Camera su una bozza di diritti dei cittadini nel web, stabilito 14 punti su cui si aprirà una discussione. Ne stiamo parlando col professor Andrea Rossetti, che insegna filosofia del diritto a Milano Bicocca e anche informatica giuridica. Abbiamo visto però che dalle prime telefonate in realtà ancora la percezione della rete non è come qualcosa da articolare come è realtà coesistente a quella nostra concreta, ma è ancora qualcosa in cui vengono fuori gli aspetti più spaventevoli, il cyberbullismo, come dicevano insegnanti, bisogna insegnare ai ragazzi come mettere della polizia per il cyberbullismo. Mi diceva il professor Rossetti nella pausa che in realtà è una delle cose su cui più stanno lavorando, il cyberbullismo, ma io mi augurerei degli insegnanti che insegnano ai ragazzi come difendersi dai cyberbulli, perché non è che è nella reiterato rapporto col bullo che si diventa vittime, sennò altrimenti ci sono sistemi per tenersi la larga sin da subito senza chiamare per forza la polizia. Andrea. Sì, prima ti correggo, Giorgio, questo documento non è ancora dibattuto alla Camera, in realtà è semplicemente il frutto del lavoro di una commissione, ci sarà una discussione online aperta a tutti e poi forse arriverà in Camera. Il Presidente della Camera l'ha patrocinato. È stata promossa dal Presidente della Camera, per la prima volta effettivamente un'alta carica dello Stato promuove una cosa di questo genere. Ritornando a cyberbullismo, sì, è proprio un buon esempio direi, no? Perché effettivamente la polizia, ma anche noi insomma che studiamo queste cose, siamo molto attenti al fenomeno, ma la dimostrazione è che questo è un fenomeno che non si può arginare unicamente continuamente continuando a promulgare norme, insomma, queste sono inutili. È un problema di educazione, educazione che noi adulti dobbiamo anche essere in grado di dare ai più giovani che si affacciano alla rete. Insomma, non faremo mai uscire alle 10 di sera il nostro ragazzetto di 10 anni e invece lo lasciamo tranquillamente navigare solitariamente in rete, a volte anche in tarde ore o per solitari pomeriggi. Ecco, in realtà dobbiamo renderci conto che così come dobbiamo accompagnare i nostri giovani fuori dalla porta di casa, così li dobbiamo accompagnare in rete. In rete ci sono un sacco di opportunità, ma ci sono anche i cattivi, ma esattamente come ci sono in realtà i cattivi, insomma. Ci sarà un momento in cui potremo cominciare a parlare serenamente di rete, di articolazione della rete nella vita quotidiana, di normative legate alla rete, di diritto in rete, di mutazione e sovrascrittura di alcuni principi che ritenevamo fondamentali, come appunto la privatezza, il possesso, il diritto di transizione, senza dover portare fuori i cyberbulli, poi cioè i pedofili, poi mi sembra che sono le categorie riprovevoli, ma sono le più allora, seguite, le più monitorate. Certo, quello che fa notizia sono i casi patologici, ovviamente, no? Quindi cyberbullismo, pedofilia, i cattivi hacker che attaccano i buoni, insomma, quello che fa notizia oggi come oggi è questo, insomma, fondamentalmente. Però io direi che per molti di noi, anche per molti insegnanti che fino a qualche anno fa non pensavano di poter entrare in rete, ormai la rete è diventata uno strumento quotidiano, insomma. In qualche modo questo documento prende atto di una serie di problemi che sono stati discussi in Italia e nel mondo negli ultimi 15 anni almeno, e li riassume tutti, non rendendosi conto forse che alla fine le persone hanno bisogno unicamente di una tutela diretta dei loro diritti, che secondo me non necessariamente passa dall'esposizione di norme generali astratte come questa. Anche perché con l'espandersi del social networking le persone non si rendono più conto di cosa sia la rete. La rete è certo. Il client o l'applicazione che ti mette in contatto con le altre persone e ti dà un servizio. Non immaginano più, la rete è diventata invisibile, come diventa invisibile il filo della corrente elettrica dentro le nostre braccia. La tecnologia sta scomparendo, no? Io non accedo più in rete unicamente tramite il computer, ma con lo smartphone, il tablet, con gli orologi, insomma. È ovunque, sì. E quindi in realtà lo strumento per connettersi sta completamente scomparendo, sta diventando veramente un device, uno strumento, appunto. Questa consapevolezza secondo me c'è nelle persone, comunque, molto più di quanto si possa credere. Sentiamo qualche ascoltatore ancora. Marco, buongiorno. Veloci, perché voglio farvi parlare a tutti e tre. Complimenti anche ai temi, professore. Io ho chiamato perché 10 minuti fa parlavate di neutralità della rete. Io sono appassionato di tecnologia, ho un piccolo blog, scrivo, no? Sono arrivato a 10.000 lettori, poca cosa. Neutralità della rete è un concetto che va spiegato, nel senso che anche uno che ha un blog e parla di come cuocere patatine fritte in questo momento ha un diritto di neutralità di traffico dati pari al... Beh, non è esattamente questo. Se allude naturalmente ai grandi padroni della rete, quello dovrebbe essere neutrale, ai grandi motori di ricerca, questo penso, no Andrea? Il concetto di neutralità della rete nasce proprio in questo, no? È un problema tra i grandi internet service provider e le telecom. È chiaro che poi in maniera traslata questo ricade anche sull'utente finale, ma veramente è in maniera traslata. Dire che una persona ha il diritto alla neutralità della rete, secondo me, è veramente un po' fuorviante. Un blog deve avere un suo diritto di punto di vista editoriale. Indubbiamente. Ma allora, c'è il diritto alle persone della libertà di espressione di pensiero, ma questo è già garantito costituzionalmente, no? Quindi qui bisogna semplicemente trovare i mezzi tecnologici affinché questo avvenga. Luca, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno a tutti. La mia domanda è rivolta al suo ospite per quanto riguarda i diritti, la differente trattamento che si rischia di avere in rete rispetto alla vita reale. Faccio un esempio, spero che poi si possa tradurre in un concetto o un principio. Se io ho un documento a casa e l'autorità giudiziaria decide di acquisirlo per delle sue indagini, fa una perquisizione e mi lascia un verbale. Se io ho lo stesso documento nel cloud, questo non è detto che succeda. Attualmente mi risulta che non ottima succeda. Ottima domanda. È un'ottima domanda. In teoria in realtà succede anche se prendono qualcosa che lei ha nel cloud, e evidentemente c'è un grande problema in realtà per la polizia, no? Prendere qualcosa che ha nel cloud, perché intanto ad esempio non è detto che il server sia in Italia. Se ha roba nel cloud di Google, siamo certi ad esempio che non è in Italia, quindi per farlo legittimamente c'è bisogno di una rogatoria internazionale. La polizia è molto attenta ultimamente su queste questioni procedurali, che sono quelle che poi possono alla fine invalidare un procedimento oppure no. C'è un caso clamoroso in cui in realtà la rete e la digitalizzazione fornisce una grande protezione, è quello dei contenuti digitali. I contenuti digitali in formato elettronico non hanno semplicemente la copertura data dal copyright tradizionale, ma sono anche protetti con DRM, e rompere un DRM è un reato reato che è ancora diverso da quello della copia. Di questo non si è ancora reso conto, beh, no, quasi nessuno, non è vero, insomma, però è una cosa che circola unicamente tra gli studiosi. In realtà la rete in alcuni casi permette di proteggere troppo alcune cose a cui eravamo prima abituati ad accedere. Grazie Andrea Rossetti, grazie agli ascoltatori, nella brevità del tempo abbiamo dato un'idea che qualcosa si sta muovendo, anche se in realtà la realtà è ancora in territori ben più distanti da quello che è il punto di vista dei nostri politici, questo è chiaro.